I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. Mercati incontentabili di fronte alle nuove iniziative di stimolo monetario della Banca Centrale Europea lanciate da Mario Draghi. Giovedì, in concomitanza con l'annuncio delle nuove misure, le borse hanno avuto una doppia reazione, un grande entusiasmo iniziale e poi una marcia indietro repentina. Il pacchetto annunciato è andato molto al di là delle aspettative. Tassi europei a zero, tasso per i depositi bancari a meno 0,40%, quattro nuove operazioni di rifinanziamento alle banche, l'ampliamento ad 80 miliardi al mese da aprile del piano di acquisto di titoli. E poi sono state riviste al ribasso le stime di crescita europee e anche dell'inflazione, vera spina nel fianco di Mario Draghi. Come dicevamo, reazione però convulsa delle borse, perché Draghi ha fatto sapere che sui tassi non interverrà più. Prima una fiammata, poi hanno ripiegato tutte, poi venerdì di nuovo largamente positive. Una reazione altrettanto confusa c'è stata sull'euro, che invece di svalutarsi ha preso un forte recupero sul dollaro. E ancora molto importante è stata la reazione dei titoli di Stato, che continuano a vedere rendimenti in flessione. Venerdì, per la prima volta nella storia, è finito in negativo il tasso del BTP a 3 anni. Dunque mercati che si muovono ancora a vista, che non danno segnali di grande stabilità e che ora cominceranno a puntare i riflettori sui temi delle prossime settimane, a cominciare dal meeting della Banca Centrale Americana di questo martedì e mercoledì 15 e 16 marzo. Per quello che riguarda i temi della settimana di Piazza Affari, chiaramente alla luce delle manovre sui tassi di interesse, i movimenti più vistosi li hanno compiuti i titoli del settore bancario, che hanno messo segno dei rialzi molto corposi. Da segnalare l'altra notizia che ha movimentato la galassia Telecom: il gruppo francese Orange potrebbe prendere in considerazione l'idea di un'integrazione con il gruppo italiano, ipotesi che ha avuto anche il benestare di Palazzo Chigi, ma che è stata bollata come fantasiosa dai vertici Telecom, che hanno letteralmente smentito di avere questo dossier sul tavolo. Infine, quasi formalizzato il nuovo amministratore delegato di Generali, sarà quasi certamente l'attuale amministratore delegato di Generali Italia, Philippe Donnet. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Anche questa prima fase del 2016 offre qualche spiraglio positivo sul fronte dell'occupazione. Per il mese di gennaio l'INPS ha segnalato una forte riduzione del numero delle domande di indennità di disoccupazione, sono comprese l'ASPI, la mini ASPI, la NASPI, cioè tutti i nuovi ammortizzatori introdotti dalla riforma del lavoro. La flessione è del 32% rispetto al 2014 ed è anche la conferma del trend positivo già avviato nel 2015. Cerchiamo di capire perché questo dato è significativo. Beh, innanzitutto perché indica una diminuzione del numero di licenziamenti, visto che queste indennità vengono chieste, vengono corrisposte in caso di perdita involontaria del posto del lavoro e non in caso di dimissioni o risoluzioni consensuali del contratto. In più, va aggiunto che in genere il mese di gennaio è quello in cui le domande di disoccupazione sono tradizionalmente più elevate, perché gennaio segue dicembre, che è invece il mese in cui si interrompono più frequentemente i contratti. Come sappiamo, per il contratto a termine è arrivata la possibilità di chiedere la NASPI, per cui un buon risultato a gennaio è anche un buon auspicio per l'intero anno. Però attenzione, perché come diciamo sempre, nel valutare i dati sul lavoro ci vuole cautela. Quella di oggi è un'indicazione positiva che però va letta alla luce di un tasso di disoccupazione che resta ancora molto elevato, anche se ora è sceso sotto il 12%. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.